La rosa purpurea di Franco D'Assisi. L'Italia dei giovani a 1000 euro al mese, la Spagna gaudente che sta sempre un po' fuori menù, la mafia russa che vuol mangiarsi Londra a suon di rock and roll e la nostra terra, The Earth, meravigliosa e malconcia. Ci salverà il topino d'Espero? Sono questi gli ingredienti del weekend al cinema di cui parleremo qui alla Rosa Purpurea, insieme ai protagonisti ovviamente, attori e registi e al nostro DVD Game che ogni settimana vi fa vincere splendidi film in DVD. E allora, buon ascolto e buona visione da Franco D'Assisi, chiudiamo gli occhi ed entriamo in sala con il nostro audio sommario. Dai su, prosegui con una spigola. Ramiro, il dolce. Per me conta il corteggiamento, il romanticismo. Te lo do io il romanticismo, un palmo e mezzo di romanticismo. Sono stufa! Perché un uomo non ti sopporta più di una settimana? Te l'ho messa su un vassoio, che vuoi di più? Oh, quanto è piccolo! E guardate che orecchie! Non si spaventa, non fugge. Ah, eccone una. Ha disegnato un gatto sul quaderno. No, non riesco neanche a immaginarlo. Purtroppo sì. Si chiama Piumino. Ecco, invece è interessante il personaggio dell'amico, questo ragazzo profondo, intelligente, sfaccettato, bello anche fisicamente. È ufficiale, qua dobbiamo assolutamente trovarti una donna. Anche questo è vero. Johnny qui, rockstar turbolenta e... scomparso, dato per morto. Il nostro Johnny? Se è morto è la terza volta quest'anno. E comincia da rock and roll il nostro viaggio nei film del weekend. Londra, un mafioso russo specula sui terreni, Guy Ritchie ritorna alla formula che gli diede successo, ma la vita londinese è criminali da strapazzo, come in Lock and Stock e in The Snatch. Anche rock and roll si avvale di un cast importante in cui spicca il grande Tom Wilkinson, lo ha visto per noi Annalisa Misceo. Un lotto di 5 ettari di terreno edificabile, un dipinto, una rockstar data per morta ma vivissima, una banda di delinquenti sgangherati e un boss della malavita. Condite tutto con una commercialista snob e 7 milioni di euro e mescolate. Ecco Rock and Roll, ultima fatica di Guy Ritchie. Un cocktail di sesso, poco, violenza, comica e musica, ovviamente rock. 5 ettari e diventerà una delle zone residenziali più prestigiose di Londra. Quanto verrà a costarmi? 7 milioni di euro. Per ottenere senza intoppi burocratici l'appalto per costruire un complesso residenziale, un misterioso miliardario russo senza troppi scrupoli, Yuri Obomovich, si affida a Lenny Cole, boss della malavita londinese e vero, dice lui, padrone di Londra. Per blandirlo e dimostrare la sua disponibilità, Yuri regala a Lenny anche un dipinto molto prezioso. È un bel quadro, Yuri. Te lo presto per un po', ti porterà fortuna. Dit. Dov'è il quadro? Arci, mi hanno derubato! È il suo quadro preferito. Il suo portafortuna. Ma questo dipinto sparisce e finisce nelle mani del figliastro di Lenny, una rockstar drogata, molto simile a Pete Doherty, data per morta, ma molto viva. Sono morto. E ai morti non piace la compagnia. Chi ce l'ha il quadro? Un nome. Johnny Quid. Come fa un morto a venderti un dipinto? Contemporaneamente spariscono anche i 7 milioni di euro con cui il miliardario russo doveva pagare il suo appalto facilitato, grazie alla sua commercialista snob che segnala il loro passaggio a Londra a One Two e Mumbles, piccoli criminali che la signora frequenta per distrarsi. Ho un lavoro, pensavo potesse interessarti. Sentiamo. Due contabili preleveranno 7 milioni di euro da una banca che conosco e non ci saranno scorte. 20% per me al solito. I dettagli sono qui. Ne verrà fuori una delle rapine più divertenti della storia del cinema. Scusate, ma è una rapina? Sì, è una rapina. Grazie. Oh! Ma dove sta la retromarcia? Devi alzare il pomello sulla lecca del gabbio, la leva del camion. Tra inseguimenti improbabili, feste gay, tossici irrecuperabili e piccoli delinquenti di strada appassionati di Jane Austen, Guy Ritchie descrive i bassifondi di una Londra che cambia, in cui la vecchia scuola, quella di cui Lenny è il preside, come dice lui stesso, deve scontrarsi con i nuovi grandi criminali che arrivano dall'est, con molti più soldi. Anche il crimine si evolve, come cambiano gli interessi, cambiano anche gli imprenditori e i campi d'azione. E su questo cambiamento che ha voluto insistere il regista raccontando questa storia, come ha spiegato lo stesso Guy Ritchie alla premiere di Rock and Roll a Londra. È una cosa naturale, i tempi cambiano. Io volevo fare un film che riflettesse questi cambiamenti, che mostrasse quanto Londra sia cambiata negli ultimi 20 anni. Ho cercato di farlo puntando su personaggi più moderni. The Snatch raccontava un periodo, Rock and Roll racconta un altro periodo. E io ho cercato di rappresentare questa Londra che cambia. Quello che non cambia invece è lo sguardo di Ricci su Londra, che anche questa volta non è descritta né cupa né angosciante. Come nel primo Tarantino, anche qui violenza, sangue e criminalità sono spettacolarizzate ed esasperate e non sono mai disturbanti. Il tutto in un racconto che, aiutato anche dalla colonna sonora, non perde mai di ritmo e tensione, neanche sul finale, quando promette il ritorno dei personaggi nel vero rock and roll. Un film da botteghino, insomma, questo Rock and Roll, che può andare subito nella top 5 degli incassi, dominata questa settimana dal nuovo Fast and Furious. Daniela Faggion. Tre nuovi arrivi in top 5 e il 34% in più negli incassi rispetto al weekend scorso grazie al fattore Vin Diesel. Debutta al quinto posto Disastro a Hollywood, che con il suo cast stellare incassa in tre giorni quasi 530.000 euro. Mi stai chiedendo di sventrare il mio film? Perché tu possa perdere un po' meno soldi. Te ne sarei molto grata. Meno due posizioni per Io e Marley, quarto con altri 660.000 euro e appena sotto i 4.200.000. Subito medaglia di bronzo invece per Questione di cuore. Francesca Archibugi dirige Antonio Albanese, Kim Rossi Stewart e parte incassando 735.000 euro. Roma. Con l'infarto devo fare fila. Ho l'ansia. Perde il primato Mostri contro alieni, che al terzo weekend in sala si difende comunque con quasi 940.000 euro, sfiorando i 6 milioni. Debutta sfiorando i 4 invece Fast and Furious, il quarto episodio della serie automobilistica. Ha messo a segno anche una media per sala altissima, oltre 9.000 euro tra un sorpasso e l'altro. Che cosa vuoi? Dimmi il tuo nome! Dimmi il tuo nome! La rosa purpurea. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, c'era una volta un'Italia che sognava 1.000 lire al mese. Ora c'è una generazione che non campa con 1.000 euro. La indaga Massimo Venier, la cui mano registica aveva già aiutato i film più riusciti di Aldo, Giovanni e Giacomo, come Chiedimi se sono felice, o di Ale Franz, Mi fido di te. Ora Massimo Venier si mette in proprio e ci regala l'affresco della generazione 1.000 euro. L'ha visto per noi Daniela Faggion. Questa è l'unica epoca nella storia dell'umanità in cui c'è gente che torna in Molise. Matteo Moretti ha 31 anni e si definisce un luogo comune. Genio della matematica, assistente all'università in eterna attesa del concorso, il nostro campa di contratti a termine, l'ultimo dei quali in scadenza a giorni presso una multinazionale. Prototipo del precario, costretto a un lavoro che odia, Matteo divide casa con il suo amico Francesco, genio della PlayStation, che per campare fa il proiezionista al cinema, e con Beatrice, coinquilina acquisita per una di quelle coincidenze che nella vita devono succedere. Quindi, siccome quello che ami non puoi farlo, tanto vale che ti fai piacere quello che odi, giusto? No, non è proprio così. Ah, infatti è peggio. Te in pratica fai finta di essere un altro. Anzi, fai finta che lo scemo che fa e che dice quelle cose non sei tu. Dalla vita di Matteo è appena uscita Valentina, tirocinante all'ospedale, che lo ha lasciato all'improvviso, così come all'improvviso ha incontrato Angelica, giovane manager in carriera che lavora con lui. In questo turbine di donne e incertezze, Matteo si trova di fronte all'opportunità di un trasferimento a Barcellona che potrebbe cambiargli la vita oltre che il lavoro. Di fronte al salto verso un radioso futuro infelice però, Matteo si tira indietro e sceglie gli amici e il fido precariato. Generazione di fenomeni degli anni 90 alla generazione di precari degli anni 2000. Liberamente ispirato all'omonimo libro di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa, il nuovo film di Massimo Venier abbandona il terreno certo dei comici professionisti Aldo, Giovanni e Giacomo e Ale Franz e riesce in una commedia fresca e brillante con attori giovani che rientrano in pieno nella generazione di trentenni o quasi che il film racconta. Capace di narrare con piglio scherzoso un problema come quello dell'incertezza che permea il mondo del lavoro, il film mette deliziosamente alla berlina anche le debolezze dei giovani. Sentiamo il regista Massimo Venier. Sono personaggi che quando abbiamo scritto e poi quando abbiamo girato, per cui io, loro che l'hanno interpretati, tutti provavamo molto affetto. Non c'è un personaggio che viene deriso in quanto lo si prende, lo si usa come simbolo di qualcosa di sbagliato o da prendere in giro. Quindi abbiamo, come secondo me deve fare la commedia, riso delle fragilità, un po' per esorcizzarle, un po' è un modo, è uno strumento per raccontare delle cose. Almeno questo era lo scopo che avevamo. E la nostra Daniela Faggion ha intervistato anche le due protagoniste femminili di Generazione 1000 Euro, due delle giovani attrici più belle e richieste del cinema italiano, Carolina Crescentini e Valentina Lodovini. Sentiamole. Carolina Crescentini, in questo film sei Angelica, ma solo di nome, visto che interpreti uno squalo d'azienda. Una squaletta. Beh, io sono convinta che diventerà uno squalo. Ancora non lo è fino in fondo, anche se sta iniziando, ora è sbagliato come termine, però è l'unico che dà l'idea, sta iniziando a corrompersi un po'. Lei è un vice direttore marketing, ha le idee molto chiare, vuole fare carriera. Costi quel che costi, che non significa subito le cose che ci vengono in mente all'istante, ma la rinuncia della propria vita privata, perché una cosa che vedi nel film è che lei non c'ha un amico, vive negli alberghi. Lei, il trolley e i colleghi, è un po' triste. Nel film Angelica prende e cambia città da un giorno all'altro. A te capita di lanciarti così nelle cose, oppure adesso magari che sei sempre più affermata devi ponderare di più anche nella scelta dei ruoli magari? No, le migliori scelte sono quelle che fai distinto, perché lo senti, perché è una cosa di pancia. Poi magari chiaramente ti dicono devi ponderare, devi capire, devi analizzare i pro e i contro, ma se io mi sento all'inizio che devo fare proprio questa cosa, io la faccio. Valentina Lodovini, dopo una serie di film drammatici finalmente ti vediamo in una commedia. In realtà io a teatro e all'estero, in Germania e in Francia, ho fatto soltanto film comici, quindi probabilmente una vena comica, io non ho consapevolezza di me, per cui non lo so, però probabilmente una vena comica c'è, visto che ho fatto anche commedie anche molto più pesanti, insomma con personaggi molto più estremi che dovevano far sorridere e ridere per forza. Però era la prima volta che mi mettevo in Italia sul grande schermo, quantomeno alla prova, e quindi ero terrorizzata. Il risultato me lo dovete dire voi, perché io non lo posso dire. Al tuo personaggio, Beatrice, è affidata una delle frasi secondo me più belle del film. Il primo segnale di crisi di una società è la nostalgia. Tu che rapporto hai con la nostalgia? Io sono una nostalgica per eccellenza, quindi non so, io sono proprio molto nostalgica. Credo che alla fine ciò che ti rimane sono solo i ricordi. E di questo film che cosa ricorderai? Ma ricorderò il caldo che faceva a Milano ad agosto, ricorderò il buco nel quale sono dovuta cadere per una giornata intera e le mie ginocchia che alla fine erano messe un po' male. Generazione 1000 euro, la proposta italiana di questo fine settimana. Noi apriamo la prima finestra, la prima parentesi sul DVD game. Tre frammenti nascosti di un film misterioso che dovrete riconoscere per provare a vincere il DVD proprio di questo film. Allora, ascoltiamo la prima traccia. Cuoio Vanni! Non ci vuole denaro! Guarda che spada! Già rovino! Però prima sortire e poi parlare! Ma la prima scelta, sa? Armamenta de gran cavaliere! Prima toccare e poi pagare! Oh, io prevengo! Sì. Poco tengo, poco dongo! Vecchio filorcio! Una traccia già piuttosto esplicita di per sé stessa, quindi per il momento non aggiungiamo aiuti di alcun tipo. La rosa purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica se avete già indovinato di che film si tratta. Sbollentiamo le punte degli asparagi e mettiamo la coda e le chele dell'astice sulla piastra. Dai su, prosegui con una spigola, subito! Ramiro, il dolce, tagliatelli al bicocche! E parliamo ora di Fuori Menù, Fuera de Carta, il titolo originale di questo film spagnolo, una commedia dissacrante che arriva nelle nostre sale cinematografiche. Racconta di Maxi, un raffinato chef omosessuale che gestisce un ristorante nel quartiere gay di Madrid. Sergente di ferro sul lavoro, come avete sentito, Maxi ha alle spalle un matrimonio fallito a causa della sua omosessualità e due figli che, dopo la morte della moglie, stanno per tornare sotto la sua tutela. La migliore amica di Maxi e la sua vice al ristorante, Alex, in perenne ricerca di un maschio. A complicare le cose, già ingarbugliate fra le difficoltà economiche del ristorante, la tanto agognata stella Michelin che non arriva, il rapporto tutto da inventare con i figli, arriva Orazio Peretti, ex calciatore argentino, di cui tutti i protagonisti, uomini e donne, si invaghiscono. Te l'ho messa su un vassoio, che vuoi di più? Che ti disegni anche il bersaglio? Dirige Nacho García Veiglia questa commedia zapaterista che ripropone lo schema di una Spagna liberata sessualmente e culturalmente, dissacrante e politicamente scorretta. Il tutto però puzza un po' di déjà vu, i dialoghi trasgressivi ad ogni costo, la recitazione sovraccarica che ricorda il primissimo Almodóvar, ma 20 anni fa ovviamente faceva tutto un altro effetto, personaggi così alternativi da cadere nel conformismo. Il meglio il film lo dà forse nei rari momenti intimisti e in qualche battuta salace. Sentiamo il regista, Nacho García Veiglia, per cui Fuori Menù segna l'esordio alla regia cinematografica. Io avevo fatto hace muchos años una serie politicamente molto corretta e molto conservadora, che era Medico Familia. Io per tanti anni ho fatto serie TV molto politicamente corrette, come Un Medico in Famiglia. Poi sono passato sempre in TV a cose più graffianti. E a quel punto tutti hanno cominciato a dirmi: ma perché non fai cinema? Allora ho parlato con Javier, gli ho detto che se mai avessi fatto un film avrei voluto lui come protagonista. Insomma, i tasselli sono andati tutti al loro posto. Avevo la storia e l'attore e si è concretizzata l'occasione. Il film è nato così. Tenere Javier Cámara, se juntaron, coincidieron, hicimos la película. E apriamo ora una parentesi dedicata al Festival di Cannes, il più importante festival del mondo. Si apre ormai fra meno di un mese e in settimana sono stati resi noti, precisamente giovedì scorso, i titoli che fanno parte del concorso per la Palma d'Oro. C'è un solo film italiano, ma è un film italiano di un autore di primissimo livello, come Marco Bellocchio. Il film si intitola Vincere e chissà che anche quest'anno all'Italia non riesca di convincere invece la platea e la giuria del Festival di Cannes, come accadde l'anno scorso con Gomorra e con Il Divo. Un Festival di Cannes con un parterre di partecipanti in concorso straordinario, poca America, molto cinema d'autore, ma i più grandi nomi del mondo davvero in una edizione che sulla carta si presenta come una delle migliori di tutti i tempi. Pensate, oltre a Marco Bellocchio si va da Pedro Almodóvar a Quentin Tarantino, che presenta l'atteso Inglourious Basterds, da Jane Campion a Lars von Trier con il già discusso Antichrist, da Michael Haneke ad Ang Lee, ancora Ken Loach, Park Chan-wook, davvero il Gotha del cinema mondiale. Ma torniamo a Marco Bellocchio, che spiega ai nostri microfoni cosa lo ha affascinato della storia, della trama di questo film, Vincere, ambientato durante il fascismo, che racconta la storia tragica di Benito Albino Mussolini, il figlio che il duce ebbe dall'amante Ida Dalser. Marco Bellocchio. Io avevo prima letto un paginone lì su Repubblica, che però illustrava il film che sarebbe stato proiettato il giorno dopo, di Laurenti e di Norelli. Poi ho letto il libro di Marco Zeni e il libro di Pieroni, ma io sono rimasto veramente sconvolto, perché quando tu vedi una storia che ti sembra esagerata, ecco, è unica rispetto al fascismo, perché appunto parliamo di galera, parliamo di confine, parliamo di morte, parliamo di atrocità. Però di una donna messa in manicomio, il figlio messo in manicomio, entrambi muoiono in manicomio perché lei, sì, in modo eccessivo e forse un po' da rompiscatole, rivendicava di essere la moglie, ma soprattutto di essere la madre di un ragazzo che Mussolini aveva riconosciuto e poi una volta poter disconosciuto. Mi sembrava ci fosse un tale pieno di tematiche anche melodrammatiche, ma vere, inteso non come singole romanze, ma proprio la forma complessiva del melodramma, che per tanti anni io derisi, però c'è in certi casi, e spesso il melodramma è una forma d'arte morta, che non è più... che non può più rinascere, però artisticamente straordinaria, ecco. In fondo Ida Dalser mi ricorda certe eroine non solo della tragedia greca, pensiamo ad Antigone ma anche a Medea, ma per esempio a Ida, pensiamo a Tosca, pensiamo a tante eroine del melodramma. E sul significato di essere di nuovo al Festival di Cannes, Bellocchio si è espresso così. Mettiamo da parte la finta modestia, però di fatto, primo, io non so quali film sono stati visti dai selezionatori, né sapendolo me ne compiacerei più di tanto. Sicuramente i selezionatori, il direttore, fanno sempre un ragionamento complessivo. non solo del tuo film, ma di tutti gli altri, ecco, e hanno pensato che la competizione, anche convincere, acquisti maggior interesse. La Rosa Purpurea. Siamo arrivati alla terza parte della Rosa Purpurea, un blocco della trasmissione che vogliamo dedicare ai più giovani, ai giovanissimi, addirittura ai bambini. Ci sono due film che parlano soprattutto, ma non solo, a loro. Uno è Earth, film Disney che rappresenta un po' un ritorno Disney al documentario spettacolare. Ricorderete negli ultimi anni film come Microcosmos, per esempio, cioè film che hanno cercato di usare la forma documentaria, ma soprattutto di mettere in scena delle immagini straordinarie, frutto di tecniche di ripresa molto molto avanzate. Ebbene, Earth si colloca proprio da queste parti. L'altro film è un film di animazione più classica e tradizionale, come Le avventure del Topino d'Espero. Ne parleremo fra poco. Concentriamoci prima però su Earth, cioè la Terra, il nostro pianeta, perché questo pianeta azzurro, sempre un po' più grigio, se vogliamo, è stato sbeffeggiato, svillaneggiato, depredato, ridotto ai minimi termini dalla presenza umana soprattutto, ma è ancora un posto pieno di meraviglie. Allora, con un sapore da una parte ambientalista, di ambientalismo didattico, quello che si vuole insegnare ai più giovani, dall'altra appunto con l'occhio innamorato di chi guarda una cosa bella e la sa riprendere in maniera davvero straordinaria, arriva questo film che è veramente di una bellezza e di una spettacolarità notevole. E allora facciamoci raccontare le emozioni di Earth da Diego Giuliani. Di tutti i pianeti nel nostro universo, uno soltanto è in grado di ospitare la vita come la conosciamo: la Terra. In queste poche battute il biglietto da visita di Earth, imponente esperimento dalla straordinaria forza visiva che la Disney ha ripreso da una serie di documentari della BBC. La storia è antica come il mondo, iniziata con un asteroide che si abbatté sulla Terra inclinandone l'asse di 23 gradi e mezzo e così dando luogo 5 miliardi di anni fa al miracolo della vita. In questa definizione un po' retorica con cui i registi Alastair Fothergill e Mark Linfield presentano il loro progetto, l'impronta che nel bene e nel male permea l'intero documentario, 90 minuti di immagini mozzafiato che a sguardi, viaggi e lotte di tre diverse famiglie animali affidano il racconto di un dramma che difficilmente avrebbe potuto apparirci più umano, quello della migrazione. Per trovare cibo, deve portare la sua piccola in posti più ricchi di alimenti, all'estremo sud del nostro pianeta. È la migrazione più lunga compiuta da un mammifero marino. Il cast tutto animale recita a braccio mettendo in scena la sua battaglia per la vita, quella della balenottera a caccia di cibo col suo cucciolo dall'equatore alle acque del Polo Sud, è una delle tre storie principali attorno a cui è costruito il film. L'avventura più straziante è però quella degli orsi bianchi, a cui l'effetto serra fa letteralmente mancare il terreno sotto i piedi. La sfiancante ricerca di un approdo con piccoli e famiglie a seguito, tra ghiacci sempre più fragili e sottili che spesso li condannano a morte per sfinimento tra le acque ghiacciate dell'oceano. Terza grande migrazione è quella di una elefantessa e del suo cucciolo che si trascinano nel deserto subsahariano alla ricerca dell'acqua. Qui più che altrove a colpire allo stomaco sono gli sguardi umani dei due animali, una sofferenza che sembra tradire fragilità e dramma mascherata dietro scorza e dimensioni dei due pachidermi. Il rivale, detto uccello del paradiso superbo, è un mago che sa fare un trucco speciale. La voce narrante di Bonolis è, insieme all'enfasi del contrappunto musicale, una delle più evidenti debolezze del film, un sacrificio all'appeal commerciale che non appanna però la potenza visiva delle immagini. Dai ghiacci del polo al deserto subsahariano del Kalahari, un titanico sforzo produttivo misurabile in 5 anni di riprese in 68 diversi paesi, 1000 ore di girato e oltre 40 cameraman sul campo. La retorica è dietro l'angolo, la storia manca tratti di ritmo e sceneggiatura, ma limpidezza di testimonianza e fotografia valgono da sole il documentario, anche alla luce dell'allarmante testimonianza del regista Fothergill. Se dovessimo rigirarlo tra 10 o 20 anni, ha detto, non saremmo sicuri di avere il materiale per farlo. Un buon motivo per andarlo a vedere e soprattutto per darsi da fare per il nostro pianeta. Questo era Earth nelle sale cinematografiche italiane già da qualche giorno, è uscito qualche giorno prima del fatidico venerdì in occasione della giornata mondiale della Terra. Noi a questo punto apriamo la seconda finestra sul DVD game di questa settimana. Ascoltiamo insieme questa traccia. No! Fermi, cristiani! Se non volete patire la nostra stessa sciagura, quali voi ci vedete siamo colti da peste. La peste. Lo grande contagio. Uomini affortunati, unitevi a noi e la vita salva verrete. Seguitatemi e lo terribile morbo non vi tangerà. Sarai mondo se monderai lo mondo. Da ogni male guarirà chi in terra santa meco verrà. Tutti allo santo, allo santo, allo santissimo sepolcro. Deus vult, Dio lo vuole! Avete capito di che film si tratta? Se lo avete già indovinato, la Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere la risposta esatta. Noi ricordiamo sempre che il più veloce del sabato e della domenica fra quelli che avranno indovinato riceveranno proprio questo DVD che sveleremo ovviamente la prossima settimana. Vi ricordo sempre di inserire anche il vostro indirizzo di posta privata per poterlo eventualmente ricevere ed accorciare così i tempi di spedizione. A questo punto noi andiamo all'altra proposta, abbassiamo ancora un po' il target in termini anagrafici, perché dai ragazzi, dal family di Earth andiamo ai bambini, chiaramente sempre benvenute le famiglie, delle avventure del Topino d'Espero, animazione che ancora una volta ci mette di fronte al format, diciamo così, del piccolo animaletto carino, grazioso, ma diverso dagli altri per un fatto soprattutto fisico, ma pieno di genialità e di grandi capacità. Vi ricorda Nemo, tanto per dirne uno, oppure Chicken Little? Ecco, il mondo dell'animazione recente è pieno di episodi di questo tipo. Sentiamo cosa combina questo Topino d'Espero da Barbara Righini. Un topino tutto particolare, una principessa e un regno da salvare e il lieto fine che contraddistingue ogni favola che si rispetti. C'era una volta un fantastico paese d'oro, un luogo che viveva aspettando il giorno della zuppa, quando tutti i sudditi potevano assaporare le creazioni di uno chef infallibile. Ma un tragico evento finisce per porre sotto incantesimo il regno, portando il buio e la disperazione nel cuore di tutti, anche in quello della principessa. Credi che ci sia un po' di luce? Da qualche parte nel mondo. Bandita la zuppa, banditi i ratti, causa involontaria del tragico evento, a salvare la situazione arriverà un topino diverso dagli altri. D'Espero, piccolo piccolo, con orecchie enormi e soprattutto impavido. D'Espero sfida la sorte e si addentra nel mondo degli umani, assetato di sapere e di avventure. Sei un ratto? No. Un topo? Io sono un gentiluomo. Scommetto che lo dici a tutte le principesse. Non puoi parlare a un essere umano, ti getteranno nelle segrete e verrai mangiato dai ratti! Il suo incontro con gli uomini e il suo non voler seguire le regole finiranno per condannarlo al confino nel mondo dei ratti. Ma D'Espero saprà tirarsi fuori anche da questa disavventura, finendo per combattere cattiveria e invidia che rischiano di costare la vita alla principessa. Le avventure del Topino d'Espero segna l'ingresso nel mondo dell'animazione della Universal, la farda concorrente a Disney e DreamWorks. Un cartone per bambini che sceglie di non puntare su ironie e comicità, una favola classica per bambini non troppo piccoli però, perché il mondo dei ratti è veramente terrificante, mentre la malvagità non si nasconde solo negli animi neri, ma si annida anche nelle persone fondamentalmente buone. Insistente la voce fuori campo che finisce per diventare fastidiosa. Nella versione originale la produzione ha scelto tutti attori di primo piano per dare le voci ai personaggi, da Dustin Hoffman a Kevin Kline, da Stanley Tucci a Matthew Broderick, da Sigourney Weaver a Emma Watson, l'Ermione di Harry Potter, che non ha sentito la pressione delle aspettative per questa sua nuova esperienza. No, I didn't feel any pressure No, veramente no, nessuna pressione. Mi sono divertita un mondo, era qualcosa di diverso e questo mi piaceva. Quando ho letto lo script ho pensato subito, questo sarà qualcosa di speciale. Com'è stato lavorare senza avere a fianco altri attori e il calore di un set per la giovane Emma? Ho incontrato Dustin Hoffman l'estate scorsa e ci siamo detti, oh, siamo nello stesso film. È stato strano in effetti, sei nello stesso film ma non lavori veramente con il collega. Però per esempio con Broderick, che interpreta Despereaux, abbiamo lavorato insieme un paio di giorni. È stato bello e poi mi ha reso le cose più facili. In effetti dover interpretare solo usando la voce e mettere tutto il personaggio nella voce non è semplice. Prima di dare la linea alla regia e ricordando che fra poco parleremo di DVD qui alla Rosa Purpurea, anticipiamo un attimo la pagina dei DVD perché in settimana sono stati assegnati in una bellissima serata a Roma condotta da Ilaria D'Amico i DVD Awards, gli Italian DVD Awards 2008, una manifestazione che ormai nel corso degli anni ha saputo prendere un ruolo importante perché è l'unico e sicuramente il più importante riconoscimento italiano ai DVD come mezzo di diffusione del buon cinema, cioè quindi a come un DVD è fatto a prescindere dalla qualità intrinseca artistica del film di cui è veicolo. E allora, miglior DVD dell'anno del 2008 è stato nominato Il Cavaliere Oscuro, cioè l'ultimo capitolo della saga di Batman firmato da Christopher Nolan, l'ultima prova di Heath Ledger, poi premiato anche agli Oscar. Miglior DVD invece di un film italiano, Ex Aequo, Il Divo di Paolo Sorrentino, che tra l'altro questa settimana è uscito a New York con recensioni straordinarie del New York Times, che parla di film che si colloca fra Fellini e Il Padrino, insomma davvero una recensione di quelle di cui andare orgogliosi. Ma dicevamo, miglior DVD italiano, Il Divo, Ex Aequo, Gomorra, non si poteva scontentare nessuno dei due film che l'anno scorso hanno trionfato a Cannes e di cui Lucky Red da una parte e 01 dall'altra hanno messo in circolazione DVD davvero molto interessanti. Poi i classici, La sfida del samurai di Akira Kurosawa, una edizione straordinaria, quella distribuita da Mondo Home Entertainment, miglior DVD classico italiano, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, e anche qui la distribuzione è Lucky Red. La Rosa Purpurea. La quarta parte della Rosa Purpurea si apre con Trailer USA, la nostra rubrica settimanale che fa da vetrina alle anteprime cinematografiche americane, ai film che stanno per uscire o sono appena usciti sugli schermi d'oltreoceano e che anticipano chiaramente anche le uscite italiane. Salutiamo subito la nostra super esperta di trailer americani che va a scovarli un po' ovunque, Micaela Bellisario, che è qui con noi. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, so che oggi hai scovato un film che è da qualche giorno nei cinema americani, che si intitola Is Anybody There? Letteralmente c'è qualcuno, come quando ci chiediamo se c'è qualcuno in una stanza o in un luogo. Un film che ha come protagonista un attore straordinario come Michael Caine, che ha vinto due Oscar, l'indimenticabile Anna e le sue sorelle di Woody Allen e Le regole della casa del Sidro. Lo ricordiamo per Quarto Protocollo, negli ultimi anni come maggiordomo di Batman nel Cavaliere Oscuro, ma insomma un attore davvero straordinario. Cosa ci regala? Qual è il suo ruolo in questo film? Beh, intanto il film è già stato salutato come la migliore interpretazione mai vista di Michael Caine sul grande schermo. Chissà se l'attore sarà contento di questi grandissimi elogi. Ad ogni modo è la storia molto delicata, molto commovente, anche di un'amicizia tra un uomo anziano e un bambino di 10 anni che quindi si affaccia alla vita. L'anziano, interpretato da Caine, è un prestigiatore in ritiro che si ritrova a dover andare a vivere in un pensionato geriatrico in un villaggio inglese. Ovviamente non è per niente contento della novità perché si sente ancora molto attivo. Il pensionato è gestito da una coppia di giovani che ha un bambino molto piccolo, appunto di 10 anni, per niente contento di vivere in quella situazione. Ecco un passo in cui Michael Caine contesta alla proprietaria, alla mamma del bambino, gli ordini di comportarsi sempre in un certo modo. Ecco, piano piano il bambino e l'anziano prestigiatore si scoprono e il bambino entrerà in un mondo magico, ascolterà i racconti di Michael Caine, insieme a questo suo amico un po' speciale farà un'esperienza che alla fine farà bene a tutti e due. Questo che ascolterete è un passo del trailer in cui il bambino, attraverso delle foto, scopre il passato di questo prestigiatore e comincia a fargli domande. This is Binaro. Yeah, well, I used to have a beautiful wife and all my own teeth. Your life changes. You're very fortunate, you know. You've got all these old people around with all these amazing stories. Mi sa perché da questa descrizione, Micaela, mi viene in mente l'immagine del Peter Sellers di Oltre il Giardino, cioè di un attore che ci regala anche a carriera avanzata una delle perle assolute della sua filmografia. Dicevamo film appena uscito in America, ancora sconosciuta per il momento alla data italiana, ma ovviamente confidiamo di vedere Is Anybody There anche sui nostri schermi. Ciao Micaela! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori, alla prossima settimana! E con il grande Michael Caine e il suo nuovo Is Anybody There, noi siamo arrivati alla zona dedicata ai DVD e come sempre cominciamo con il farvi ascoltare la terza traccia del film misterioso di questa settimana. Oh, e che facete? Ti facevamo morto, ma che stai con un'ossa? Zitti, vai, vai. E non le devi dute? Certo. Ma non mozzica? No, è buona. Me trovò smaguzzati in sulla riva, me curette e me portette nella grotta come fosse una gommare. Oddio, male non sto. Un giorno ghianne e marroni, un giorno radicchio o puramente ranocchi. Insomma, se campa. Beh, allora, noi ti salutiamo e stati bene. No, aspettate! Venga pure io. La Rosa Purpurea, @radio24.it, un grande capolavoro della commedia italiana, uno dei film più surreali e anche divertenti davvero che sia capitato di vedere in quella stagione d'oro del nostro cinema. Siamo ai DVD e quindi siamo a Claudio Pofi, che è già in collegamento con noi e che saluto. Ciao Claudio. Eccoci, ciao Franco. Cominciamo come sempre con il quiz della scorsa settimana. Era un quiz d'autore, avevamo detto, un film che aveva vinto un festival di Cannes, l'ultimo festival di Cannes. Pensavamo a un quesito che vi avrebbe tormentato, invece in molti avete partecipato, in tanti avete indovinato. Andiamo ad ascoltare una delle tracce che vi avevamo proposto. Che ti è capitato durante le vacanze? Io non l'ho vista durante le vacanze. Sì, lo so, non ci siamo visti, perciò mi sto domandando perché quando ci siamo lasciati a giugno venivamo da un anno in cui c'era stata intesa, andavamo d'accordo, tu eri volenterosa e poi ti ritrovo a settembre e in pratica è dal principio dell'anno che non collabori più per niente. Si trattava della classe, l'avete capito, di Laurent Canté, il film che mirabilmente racconta un anno vissuto, se non pericolosamente, in maniera piuttosto disagiata, da un professore di una scuola superiore della banlieue parigina in mezzo a ragazzi difficili ma anche pieni di talenti inespressi, che questo professore, che vive ancora un po' il suo lavoro come una missione, cerca di tirare fuori. Un film straordinario, intenso, drammatico, con un taglio documentaristico, anche se tutto recitato dal primo all'ultimo minuto, che è valso appunto la Palma d'Oro alla pellicola appunto di Laurent Canté presentata al Festival di Cannes. Hanno indovinato e hanno vinto e vincono il DVD Vincenzo Candiano di Pisa e Adelchi Accini di Carpi, provincia di Modena. Noi andiamo avanti, Claudio, ci sono altri due film di cui parlare. Cinema italiano dell'immediato dopoguerra, uno dei capolavori assoluti della letteratura italiana, forse il nostro più grande romanzo del Novecento. Stiamo parlando di Il Mulino del Po di Riccardo Bacchelli, che diventò film appunto subito dopo la guerra, e adesso uno straordinario DVD. Ascoltiamo la clip. Hanno firmato i vecchi galantuomini timorati di Dio. Ma questa è una camorra, è una mafia, è una teffa. E loro ci si mettono, i tuoi verginesi. Rinnegano anche il loro sangue per tenere dietro quel gaglioffo del Raivolini. E allora vanno da lui a chiedere lavoro, perché sulle mie terre né camorra, né mafia, né lega. O fuori dalla lega o via dalla coguaccia. Gli do l'escomio, li caccio. Da dove? Dal Cataio, dal Bengodi, dalla Luna, dalla coguaccia. Sì, dalla coguaccia li caccio. Domani ultimatum. E gli altri proprietari faranno lo stesso. E la vedremo. Da Cristaldi Film, la storia del Mulino del Po, quindi una fotografia dell'Italia rurale della fine degli anni 40 e il racconto struggente di questi due promessi sposi che si troveranno in difficoltà in mezzo ai moti socialisti del periodo, un film assolutamente drammatico e che rivive nel pieno del suo fulgore all'interno di questo DVD che è stato interamente restaurato in digitale da LVR Roma e segnaliamo appunto questa grandissima qualità di un bianco e nero magnifico che non è mai stato possibile vivere in questo modo in passato, notevolissima anche se monofonica la traccia originale in italiano. Tra l'altro il film è molto importante perché parteciparono alla sceneggiatura Federico Fellini, alla riduzione del romanzo di Bacchelli, tra gli altri Comencini e La Tuada. Fu all'epoca aiuto regista Carlo Lizzani, che ritroviamo intervistato in una bellissima e approfondita intervista sul suo coinvolgimento all'interno del film. La Tuada, che poi fu anche il regista appunto di questo straordinario Mulino del Po. Andiamo avanti, invece cinema assolutamente recente. Questa stagione cinematografica ci ha riportato nelle sale italiane Jan Sverak, il regista premio Oscar per Kolya. Ancora una volta atmosfere divertite, grottesche e melanconiche, che si mischiano insieme a una storia di anziani e di amore. Il film è Vuoti a rendere, ascoltiamo la clip. Quante? Sono 12, amico mio. Non è possibile, signor Calhoun. Deve significare qualcos'altro. Non avrebbe neanche la forza di arrivare qui. Non conosci le donne? Che tipo deve essere il suo ragazzo? Ma può darsi che ne abbia più di uno, capisci? Ah, ecco. Non ci avevo pensato. Caspiterina, signor Calhoun. E io neanche una tacchetta. Beh, lo spettacolo è finito. Puoi tornare a lavorare. Eh sì, da Fandango, questo DVD che ci propone il film di Jan Sverak, che ci racconta di questo professore, il professor Josef, nella Repubblica Ceca, che assolutamente stanco di insegnare e di non essere minimamente rispettato dai suoi studenti, ritroverà la felicità in questa situazione anomala di dipendente all'interno di questo supermercato nel reparto per la resa delle bottiglie. Film assolutamente da riscoprire in DVD, la qualità è notevole per quanto riguarda la parte video. Tra l'altro segnalo che oltre alla traccia in italiano multicanale è presente anche l'originale in ceco, e come extra un interessante approfondimento sulla realizzazione del film, il making of. E grazie allora Claudio Pofi, noi ci risentiamo fra 7 giorni qui per le novità in DVD. A presto, un saluto. E con Claudio Pofi e con i DVD noi chiudiamo questa puntata della Rosa Purpurea. Vi diamo appuntamento la prossima settimana qui su Radio 24 alle 18 del sabato e alle 9 del mattino della domenica per parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.